figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buon pomeriggio a tutti da Valentina Furlanetto. Oggi ci occupiamo della manovra aggiuntiva finanziaria che è stata varata in settimana, che prevede, tra le altre tante cose, anche un innalzamento della soglia di invalidità per ottenere la pensione. Si passa dal 74% all'85%. Che cosa significa in pratica? Che una persona che fino ad oggi aveva una pensione di invalidità e aveva un livello di invalidità, secondo le tabelle del Servizio Sanitario Nazionale, del 74%, d'ora in poi non percepirà più nulla. Allora sentiamo che cosa prevede nel dettaglio in questa scheda che è stata gentilmente concessa da Deborah Rosciani ed è andata in onda durante Salvadanaio il 1° di giugno. In una manovra finanziaria improntata sul rigore dei conti e sul taglio degli sprechi, non poteva mancare uno spazio anche per i falsi invalidi. Scattano infatti nuove norme sugli assegni di invalidità civile che alzano la soglia di invalidità necessaria per poter disporre degli assegni. Se prima la percentuale per poter beneficiare del sostegno economico pubblico era almeno al 74%, ora, per chi presenta domanda dal 1° giugno di quest'anno, il limite minimo è dell'85%. Chi si colloca al di sopra di questa soglia continuerà a beneficiare dell'assistenza economica che ha sempre ricevuto. Per gli individui invece che possiedono purtroppo il 100% di invalidità, non si parlerà più di assegno di invalidità civile, ma di pensione di inabilità. Nessun cambiamento nella manovra sulle modalità di richiesta dell'assegno e sulla procedura da inoltrare all'INPS. L'invalido civile che deve ottenere sostegno economico deve avere fra i 18 e i 65 anni, con una permanente riduzione della capacità lavorativa non dovuta a cause di guerra, di servizio o di infortunio sul lavoro. Le domande per l'ottenimento dei benefici devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica sul sito internet dell'INPS, ovviamente corredate dalla certificazione medica che attesti la natura e quindi la misura dell'infermità. Molte associazioni e famiglie di portatori di handicap, di disabili e anche di persone con sindrome di Down sono arrabbiate perché su di loro ricadrà d'ora in poi il peso anche economico del sostentamento di molte di queste persone, ma sono arrabbiate anche per le parole che sono state usate dal ministro dell'economia Giulio Tremonti durante la conferenza stampa di presentazione della manovra. Cosa ha detto Tremonti? Ha detto che la platea di invalidi in Italia è così grande che se davvero fosse così, il paese avrebbe un problema di competitività, dando per scontato che molte di queste pensioni siano false. L'accostamento però disabilità e problema di competitività ha offeso molti. Sentiamo il presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap, Pietro Vittorio Barbieri, e sentiamo anche da lui quali saranno le conseguenze della manovra. Il punto è che hanno costruito una immensa retorica sulla questione dei falsi invalidi, dopodiché hanno in realtà tagliato sui veri invalidi. La questione è abbastanza rilevante, cioè si è costruita l'idea che ci siano delle risorse che sono fondamentalmente sprecate che vengono erogate per le persone con disabilità. Nella stessa conferenza stampa del ministro Tremonti e il Presidente del Consiglio che hanno parlato della manovra, hanno parlato di una spesa effimera e di mancanza di competitività dei disabili. Ecco, per cui qui è un attacco bello e buono al sistema di welfare e di protezione sociale. Ecco. Chi si colpisce in questo caso sono tra l'altro alcune categorie che sono, come dire, troppo gravi per essere inclusi nel mercato del lavoro e invece troppo lievi per avere sostegni di altro genere. Questa è la sensazione. Che cosa comporterà tutto ciò? Facciamo l'esempio, tutte le persone con sindrome di Down che non hanno altro sostegno che quello di quella misera pensione di 236 euro al mese non la percepiranno più. E questo significherà che le famiglie si sentiranno un'ulteriore gravosità della situazione, vivranno sempre più come peso. Che altre tipo di patologie possono essere fortemente penalizzate oltre alle persone con sindrome di Down? Ma tutti i ritardi medio-lievi sono persone alle quali non è consentito di lavorare, questo è il punto. E poi ci sono anche disabilità motorie più lievi, che spesso però sono quelle progressive. Si colpiscono le vere persone con disabilità. Però è condivisibile chiaramente l'intenzione del governo di stanare i casi di falsi invalidi. Quale sarebbe stata, secondo voi, invece, la ricetta giusta per fare questo? Guardi, allora, noi non siamo contrari ai controlli e possono mettere tutti i controlli che vogliono, perché voglio dire, noi siamo i primi ad essere colpiti dalle truffe. Ci sono due o tre considerazioni da fare sul mezzo di questa faccenda. La prima è quella che faceva, credo, il vostro direttore Gianni Riotta nella trasmissione Ballarò, quando diceva che non ha mai visto un falso invalido o uno che ricorre a quei mezzucci parcheggiare il suo yacht a fianco a quello di Briatore. Un conto è che uno fa carte false per prendere 236 euro al mese, un conto è che evade milioni di euro al fisco, insomma. E se hanno ricorso a quel mezzuccio, evidentemente è perché non hanno altro nella vita. Con questo bisogna dirlo a chiare lettere, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Perché una volta che abbiamo levato quegli assegni a quelle persone o andranno a delinquere o dovranno trovare una forma di sostentamento. E quindi che facciamo? Glieli lasciamo? No, assolutamente. Bisogna cambiare, bisogna fare in modo che esistano gli ammortizzatori sociali. Cioè il problema ritorna sugli ammortizzatori sociali, su quello che in altri paesi viene garantito. Io conosco molto bene la situazione dell'Inghilterra e della Germania in particolare. In Germania e in Inghilterra esistono altre forme di ammortizzatori sociali, sostegno al reddito delle persone povere, sprovviste da ogni forma di reddito, ragione per cui nessun cittadino pensa di ricorrere alle false invalidità o quant'altro, perché poi non esiste solo questo, esistono altri fenomeni. Non ci pensa nessuno minimamente, perché hanno altre cose. Il problema serio di quello dei falsi invalidi è che vanno fatti dei controlli incrociati e ci vogliono nuovi criteri di accertamento. Non basta fare quello che si sta facendo. La misura, come abbiamo sentito, colpisce particolarmente le persone con sindrome di Down. Ne abbiamo parlato con Franca Bruzzo, segretario generale del coordinamento delle associazioni che si occupano di persone proprio con questo diverso cromosoma. Nella sindrome di Down le tabelle del Ministero della Sanità riconoscono un'invalidità del 75% o del 100% se alla sindrome di Down è abbinato un grave deficit intellettivo. La manovra finanziaria cosa prevede? Che venga erogato l'assegno mensile di invalidità a chi ha più dell'85% di invalidità. Per cui tutti i nostri ragazzi che hanno un 75% di invalidità rimangono invalidi, non è che non abbiano più l'invalidità, però non gli viene erogato l'assegno mensile. Il problema è questo, che ci sarebbe un grande numero di persone disabili con un'invalidità del 75% che non riceverebbero più alcun assegno mensile, per cui rimarrebbero queste persone che sono maggiorenni, parliamo di maggiorenni, rimarrebbero a totale carico della famiglia. Quante persone maggiorenni con sindrome di Down ci sono circa in Italia? Se noi stimiamo 34.000 le persone in Italia che hanno la sindrome di Down, almeno 20.000 persone, almeno. Certo. Ecco, e di queste quante accedono a un lavoro retribuito? Un 10% di persone con sindrome di Down accedono al lavoro. Molto poche, quindi. È molto poche, perché effettivamente non tanto perché loro non abbiano la capacità di poter accedere, ma perché con tutti i problemi che ci sono di lavoro, di trovare spazi di lavoro per tutte le persone, e questa crisi ha ulteriormente accentuato, gli spazi non sono numerosissimi. È difficile per una persona Down trovare lavoro al di là della crisi? C'è ancora uno stigma, voglio dire, c'è ancora una difficoltà da parte dei datori di lavoro? Sicuramente un po' di prevenzione nei confronti delle persone con sindrome di Down c'è, ecco. Il governo ha pensato a questo innalzamento dell'invalidità, diciamo, per una motivazione, se vogliamo, condivisibile, cioè lo stanare quella sacca di persone che si fingono invalidi. Secondo lei, però, è lo strumento giusto? Ecco, assolutamente non è lo strumento giusto. Non è che poi uno si può fingere down, cioè è una sindrome di un cromosoma appunto, diverso. Ci sono delle patologie che sono inconfutabili, come la sindrome di Down, patologie genetiche con associato ritardo mentale, ma tante altre patologie che sono diagnosticate molto chiaramente. E ora vi raccontiamo la storia di un'amicizia e di un viaggio. L'amicizia è nata un po' di tempo fa, il viaggio è partito il 3 di giugno. Simone Salvagnin, 25 anni, non vedente, e Dino Lanzaretti, 32 anni, amante dei viaggi in bici in solitaria, sono partiti giovedì da Schio a bordo di un tandem per andare in India. Più o meno 15.000 km attraverso i Balcani, la Turchia, ma poi anche la Cina, il Pakistan, per arrivare appunto nel continente indiano. Sentiamo da Dino e poi da Simone come è nata l'idea di questa grande avventura. Ho conosciuto Simone a una festa, mi ha chiesto se andavo a fare un giro con lui in bicicletta e con sto tandem, e una domenica pomeriggio ci siamo trovati, io guidavo, siamo andati via con sto tandem. È stata una cosa estremamente divertente, una cosa inaspettata per uno che guida una bici singola. E così andando, io avevo già in mente di fare questo viaggio da solo perché sono sempre stato un viaggiatore solitario, mi giro e dico: "Ma Simone, andrei perfino in India con te", e lui tranquillamente mi fa: "Ok, andiamo". Porterete con voi la carta dei diritti della persona disabile, così? Sì, sì, esatto. Poi c'è anche il progetto, adesso vediamo se riusciamo ad andare a trovare Dalai Lama e farla firmare anche da lui. E quanto starete in giro? Abbiamo fatto il conto che noi dobbiamo essere prima di novembre al di là dell'Himalaya, sennò l'inverno ci blocca e rimaniamo là a svernare, non è simpatico. Quindi pensavamo intorno ai 9 mesi per arrivare in India. Quindi chi vi volesse seguire e chi volesse anche aiutarvi magari mandandovi dei finanziamenti per sostenere questa avventura, cosa deve fare? Basta che vada a leggere cosa stiamo combinando nel nostro sito che si chiama www.versodovenonso.com. Simone, mi ha raccontato Dino come vi siete conosciuti, come è nata l'idea di partire insieme. Ovviamente affrontiamo anche il fatto che tu insomma sei un ipovedente, così? Sì, io ho questa malattia degenerativa della retina che si chiama retinite pigmentosa, che mi è stata diagnosticata nel 1993 e ha avuto una degenerazione progressiva, per cui mi ha pian pianino tolto la vista, prima passando alla fase di ipovedente. Adesso io, come categoria, perché qua poi si dividono le cose in categorie, sarei in una categoria non vedente, ho un residuo visivo molto basso, però ho una buona autonomia di spostamento nonostante questo limite di vista, perché comunque mi sono sempre spronato, ho sempre fatto molte attività. Non sono mai stato un viaggiatore come Dino estremo, però penso di aver affrontato comunque molti viaggi stando pur fermo in un posto, diciamo, molti viaggi personali per affrontare varie situazioni e continuare a trovare la motivazione ad andare avanti, a essere propositivi con se stessi, più che altro è la cosa più difficile, diciamo. Mi sembra che la musica sia stata una delle fonti motivazione più forte. Sì, sicuramente la musica è stata una cosa che mi ha aiutato a rimanere a galla, come si suol dire, perché poi in realtà varie fasi della vita, vari momenti più o meno depressivi, ho avuto varie attività. La prima attività che mi ha risollevato, diciamo, che mi ha dato un po' di sicurezza in me stesso, è stata la musica. Sono 10 anni ormai che suono le percussioni. Noi cercheremo di metterci in contatto ancora con Simone e Dino per cercare di capire come andrà avanti questo viaggio, quali saranno le tappe, le difficoltà che incontreranno. L'appuntamento con Figli di un Dio Minore è invece per domenica prossima alle 14:15.